fa? Mandate lo gaggio. E scatta lo pesce. Ehi, zio Mari. E scatta lo pesce. E mi è per pampicchi. Ah. E lo mi ha detto il buco. E ga. E pandie. E buco. E gli ha acceso adesso. Che non c'ero, che acceso adesso si sta solo. Andare, io sto uscendo con l'antenna dentro il giardino. Oh, e yeah, va bene, eh. Andare, non vedo un'anima che si frequenta. Non frequenta è mucca. Che mucca, non mi sei. Non avete nessuno, Gio Mari. E dai, sto disturbando, dici che non posso parlare, ma non. Vediamo, ok, dai. Attenzione, gigante, cambio. Acquisto.